Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Ascoltate cosa dirà nel 2016 Luigi Manca, giovane bolognese 22enne, parlando del suo motorino. Ma io col mio motorino, beh sì, insomma, un po' di cose strane, diciamo così, ne faccio. Un po' forte ci vado, a volte faccio zigzag. Ma attenzione, io col motorino ci lavoro anche. Faccio il Pony Express e lì bisogna consegnare, se piove, se c'è la neve, il lavoro è quello lì. Oh, però prima, con l'altro motorino, quello che avevo preso 2 anni fa era dura. Con le strade bagnate si prendevano dei bei rischi. Beh, oh, con questo che ho adesso è tutta un'altra storia. Ha questo sistema che stabilizza tutto, fa tutto lui e si va via dritti. E infatti è così. I sistemi di controllo della stabilità dei veicoli sono stati inizialmente applicati su mezzi di gamma alta. Erano tecnologie costose, fino a ieri, ma oggi si stanno studiando strumenti con grandi prestazioni e costi decisamente più contenuti. È probabile che nell'arco di 4-5 anni questi sistemi siano installati su mezzi di trasporto di largo consumo, come appunto un motorino. Alla base di questa strumentazione ci sono gli accelerometri di nuova generazione, apparecchiature che riescono a percepire come su un corpo agisce l'accelerazione di gravità. Attenzione, questa tecnologia la conoscete bene. Molti dei nostri cellulari cambiano l'orientamento dello schermo muovendoli ed è lo stesso principio che corregge anche la velocità delle 2 ruote di una moto se l'inclinazione del mezzo diventa pericolosa. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24 in collaborazione con Ford.